Letture di Radio 24. Negli ultimi giorni si è parlato molto di scuola, soprattutto dopo le parole di Silvio Berlusconi al convegno con i cristiano riformisti. Parole, quelle dette dal Premier, che hanno sollevato molte polemiche. Ma oggi quella contrapposizione tra scuola pubblica e privata sembra solo uno status symbol, anche tra quei genitori all'apparenza più progressisti. Noi genitori pasdaran della scuola pubblica in questi giorni siamo nervosi. Vuoi per i figli stressati che devono ripassare molte nozioni inculcate. Essendo più irritabili del solito, ci siamo a sorpresa trovati d'accordo, nel merito, non nel metodo, non nell'additare al pubblico ludibrio gente che fa cose legali, con un articolo del giornale che segnalava una contraddizione progressista. I politici e i personaggi visibili della sinistra che difendono la scuola di Stato ma poi mandano i figli alle private non sono tanti, ma sono interessanti. Non irritano perché esercitano un legittimo diritto di scelta, ci mancherebbe, o perché non sono coerenti, si vede di molto peggio, ma perché temiamo di capire le loro motivazioni. Quelle dell'ex ministra di SPD con prole in un istituto religioso della Roma bene. Del conduttore TV che la iscrive alla scuola francese della Roma benissimo. Del regista icona che ha preferito una scuola americana per romanissimi rampolli modello Vanzina. Avrebbero tutti potuto trovare scuole pubbliche per ogni esigenza, scuole serissime, come scuole dove si fa poco e si viene promossi. Hanno scelto quelle definite anni fa da una mamma che ne era fuggita, scuole di pubbliche relazioni, per famiglie ricche o mondane o aspiranti tali. Lì la nostra sinistra aspirazionale si sente forse rassicurata, altri sono meno entusiasti. Perché a sinistra e a destra la scuola dei figli viene vista sempre più spesso dai benestanti come uno status symbol, più che come un luogo formativo, dove il rigore può diventare un seccante optional. L'importante è che siano bilingui e frequentino bene. Se poi, iscritti a un liceo d'eccellenza, prenderanno votacci, verranno ritirati senza patemi e si dirà che si sono trovati male. A trovarsi meglio sono più spesso i figli della classe media, magari degli elettori e degli spettatori dei signori di qui sopra. Quelli per cui una buona formazione è l'unica speranza. Quelli che, francamente, vengono su più simpatici. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il genitore progressista e la scuola status symbol di Maria Laura Rodotà dal Corriere della Sera di mercoledì 1 marzo. Letture di Radio 24. Dal 19 febbraio, giorno della caduta del regime di Gheddafi a Bengasi, ha cominciato a trasmettere la prima radio libera della Libia, Radio Free Libya. Così, sulle frequenze 98.9 FM da Bengasi, per la prima volta in 42 anni, è possibile ascoltare notizie vere, come definite dal conduttore Khaled Ali. Ha bloccato internet, interrotto le linee telefoniche verso l'estero, reso spesso impraticabili quelle interne. Ha cercato in tutti i modi di soffocare l'informazione, affinché la verità non venisse a galla, perché nessuno sapesse delle carneficine commesse dai suoi mercenari, delle città che capitolano una dietro l'altra, del regime che si sgretola. I tentativi del colonnello Muammar Gheddafi sono stati vani. La voglia di comunicare dei giovani di Bengasi ha prevalso. Dopo 42 anni di informazione a senso unico, con pochi mezzi e tanta volontà, hanno dato il via anche alla loro rivoluzione mediatica. Negli edifici coloniali del centro città, saccheggiati e anneriti dalle fiamme, hanno disteso cavi tra i calcinacci, appeso le lampadine, coperto le finestre con dei cartoni. Ora la Libia è al corrente di tutto quello che accade, o quasi. Benvenuti a Radio Free Libia di Bengasi sulla frequenza 98.9 FM. Oggi parleremo di come potete aiutare la rivoluzione e preservare i beni pubblici in vista del nostro radioso futuro. Il talk show del popolare conduttore Khaled Ali, 42 anni, è appena iniziato. Fino al 2009, la sua nota trasmissione Good Evening Bengasi era invisa al regime. Quando oltrepassò il segno, lo licenziarono. La gente, racconta, chiama la radio, molto spesso ricorrendo agli SMS, gli unici che funzionano bene, per sapere come può contribuire. C'è chi offre cibo, chi medicine, chi mette a disposizione le proprie competenze. La radio si trova a 10 km dal centro, davanti a un'antenna alta 50 metri, protetta dalle milizie popolari. Siamo stati la prima radio della Libia libera. Abbiamo dato il via alle trasmissioni poco dopo aver conquistato la postazione, il 19 febbraio. Poi siamo stati subito seguiti da altre città. Ci sono almeno 5 stazioni in Cirenaica. Oggi le nostre raggiungono anche l'Egitto e la Tunisia. Ora le nostre raggiungono anche l'Egitto e la Tunisia, spiega Mohamed Bouyadan, un giovane coordinatore dei media. La redazione, 5 speaker, ricorda con commozione la mattina del 19 febbraio. Bengasi era in fiamme. Il tempo per riabilitare l'impianto, qualche secondo con il fiato sospeso, e poi la prima trasmissione libera da 42 anni. Finalmente si poteva sapere che cosa stava accadendo, quanti erano i morti, dove si trovavano. Cosa stava commettendo il dittatore? Potevamo smascherare le menzogne delle TV di Stato, continua Bouyadan. Ma non finisce qui. Nelle nostre trasmissioni invitiamo i giovani ancora in possesso di armi a consegnarle ai centri di raccolta dei comitati. Poco dopo è stata la volta di Free Libya di Tobruk, seguita poi da altre radio. Avvocato, come molti degli organizzatori della rivolta, Nevin Alban oggi cura il programma dei pentimenti della radio di Bengasi. In pratica raccoglie nello studio gli uomini del regime che con una dichiarazione pubblica si uniscono alla rivolta. Tra poco dirigerà un nuovo programma. La Libia inizia con la legalità. I siti internet sono ancora bloccati, ma la voglia di comunicare e aiutare i giornalisti stranieri accolti alla stregua di eroi è un'onda che travolge tutto. A Bengasi è iniziato a circolare un nuovo quotidiano, La Libertà della Libia. Si trova in un edificio coloniale italiano usato dal regime. Al piano terra stanno ancora rimuovendo le macerie. L'odore di bruciato è pungente. Per ora distribuiamo 5.000 copie che si esauriscono in un'ora, spiega Mohamed Al-Mnefi, direttore del giornale e coordinatore dei media a Bengasi. Professore universitario di giornalismo, Al-Mnefi mostra con orgoglio la copertina di giovedì. Non ci arrenderemo, vincere o morire. Una frase celebre di Omar al-Mukhtar, l'eroe della resistenza libica all'occupazione italiana. Anche il quotidiano offre informazioni di servizio. I pochi negozi aperti, cliniche agibili, i posti da evitare. In un paese dove i comitati popolari stanno cercando di ricostruire tutto da zero. Vogliamo arrivare a 50.000 copie. Tutti vogliono collaborare. È che manca la carta, conclude Al-Mnefi. Ibrahim Bnumram, 54 anni, era un popolare conduttore della TV di Stato. Fu licenziato in tronco dopo che le sue idee avevano toccato temi sensibili. Ed ora è qui, gira tra i corridoi e dispensa il suo aiuto. Vi rendete conto? È dal 1969, da quando l'uomo è sbarcato sulla Luna, che Gheddafi è al potere. 42 anni. E noi, con la stessa informazione a senso unico, incentrata sulle prodezze del glorioso leader, dell'impavido paladino della rivoluzione. E tutte quelle menzogne sullo sviluppo della Libia, mentre la gente non aveva nulla. Poco più in là, in una sala gremita illuminata dalla luce tenue di una lampadina, c'è il centro raccolta video e foto. I volontari libici li masterizzano e poi li offrono ai giornalisti stranieri e ai media locali. Il centro di Nasser Haddar è al quinto piano di un edificio distrutto. È il più efficiente, a disposizione di Al Jazeera e dei media che vogliono inviare video e foto. D'altronde Nasser, 42 anni, è un ingegnere specializzato in comunicazioni satellitari. Non è difficile. Utilizziamo la tecnologia VSAT, usiamo il satellite in Arabia Saudita e ci appoggiamo a dei server all'estero. Non ci fermeremo, assicura un membro dello staff, finché Tripoli sarà liberata. Vi terremo sempre informati su ciò che accade. Contateci. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Radio Free Libia, voce di libertà, di Roberto Bongiorni, dal Sole 24 Ore di domenica 27 febbraio.